dice, il mondo migliorerà, si dice, e guerre non ci saranno più, si dice, avete la libertà, si dice, che questo è un mondo pieno di bene, ma non è così, e di mezzo a noi c'è qualcuno che ha pagato già, stai attento a te, se non dici no, no, no, no, tutto quanto ancora si ripeterà. Il sole si spegnerà, il buio di mille case vuote, ci sarò, io non ci sarò, no, no, lo farò per te, lo farò per noi.